mancato invece, no? È mancante. Mancante lo sappiamo. Ehi, Carlo. Ehi, già ci sono, quindi il 440 te lo devi vendere, Natale. Eh sì, ah, quello di Alghero lo devo vendere, Carlo. Natale, perché... venga assolutamente. Perché mi voglio disfare di tutto, da. Mi tengo questo qui e boh. Questo è vero. Anitone. Ho capito, sì. Alla fine tenere tante cose, non neanche le sfrutti, capito? Io lo stesso, con questo vado benissimo. Ne ho due, ne ho una giù di radio e niente. Ne avevo una piccolina, quella che avevo in macchina, me l'hanno chiesta, l'ho data via e quindi sono rimasto con due. E niente, poi c'ho qualche portatile, però che non esce in FM, ne ho una coppia, vanno bene in AM, cioè in FM escono ma non in AM, capito? Non so cosa abbiano, ma penso sia un difetto delle radio, però in FM vanno benissimo. Non ne ho capito. Sì, tanto cosa te ne fai? Le famiglie purtroppo mi hanno demoralizzato, capito? E allora non tengo più nulla. Infatti nel tetto ho piazzato solo l'antenna della 27 e quella della TV, basta. Non c'ho altro. Quindi, tutto finisce. Già ti ho capito, Natali, niente, quindi finché ti lasciano così senza quello che tu volevi, fai anche bene, ti tieni la 27 per le quattro chiacchiere e adesso che ti hai sistemato l'antenna ti togli anche qualche soddisfazione, dai, in banda laterale, eccetera, già va bene lo stesso. Sì, infatti, ne ho fatto di collegamenti. Giulia, per poter seguire il protocollo della premeditazione, l'ha detto poco fa. Infatti sono sempre lì, qua nelle bande normali non ci sono quasi mai. Gli elementi... Ho capito. Gianni, cosa mi racconti? E niente di nuovo, Carlo, al solito, dai. Al solito. Sto uscendo anche poco in questo periodo, dai, non sto uscendo molto. Il sabato notte magari con qualche amico così andiamo a mangiarci la pizza, eccetera, dove c'è karaoke, dove c'è musica dal vivo, perché a me piace così, e ci divertiamo, dai. Però durante la settimana più che a fare la spesa col cane, a farmi un giro così, ma non è che stia andando da nessuna parte. Vabbè, il tran tran di tutti, dai, anche noi, chi lavora, insomma, lavoro e poi quando hai un po' di tempo libero ti devi dedicare alle faccende di casa, fare spesa, questo e quell'altro, e per il tempo libero poco ne rimane. Io non posso dire il sabato, eccetera, perché a volte lavoro anche di sabato e di domenica e quindi niente, quando ce l'ho me lo ritaglio un po' di tempo libero a fare qualche cosa. Quest'estate poche ferie, perché a noi d'estate ce ne danno giusto col contagocce, perché siamo in piena attività con tutti i voli che ci sono, invece d'inverno ti danno tutte quelle che chiedi se vuoi, però d'inverno non è che puoi andare da nessuna parte, anche perché adesso sono rimasti anche pochi voli, solo quelli della continuità, non hanno lasciato una destinazione europea, nulla, niente, solo rotte nazionali, abbiamo Roma-Milano, Bergamo, Bologna, Pisa, Napoli, Malpensa, adesso così sino a marzo, poi da marzo in poi arrivano tutte le altre destinazioni, però quando inizia la stagione di ferie ce ne danno poche, quindi alla fine fai quello che riesci a fare con i pochi giorni, capito già? E così eravamo noi, perché d'estate c'è il turismo e quindi ci davano poche ferie. E poi ce le davano da novembre, dai morti in poi. Il periodo dei morti ci davano le ferie a novembre, e poi dicembre era il periodo di Natale, quindi lo tenevano. E come cominciamo di nuovo da gennaio, febbraio, marzo, aprile, e ti davano quei periodi che non te ne fai nulla perché tutti gli amici lavoravano e cosa facevi? Non potevi fare niente, niente, ti dico la verità, ti annoiavi più che altro. Esatto, infatti non riesci a combinare granché, purtroppo è così. Io lo stesso, tu pensa che io ho i ragazzi e finiscono la scuola d'estate tutti liberi, mia moglie lo stesso non lavora eccetera, e l'unico che lavora sono io, e quindi non riesci neanche più a far coincidere i periodi, capito? E pazienza, ancora devo resistere altri 5-6 anni e poi ne avrò di tempo libero se Dio vuole, dai. Infatti, ma io quando prendevo la casa al mare l'avevo presa lì a Platamono, perché quando uscivo dal lavoro invece di tornare a casa andavo lì al mare e mi spogliavo, mi facevo una doccia, poi me ne andavo al mare, mi prendevo, diciamo, stavo un pochino lì, magari qualche volta andavo anche a pescare di notte e niente, dovevo passare, quindi loro le ferie se ne godevano, vabbè, l'avevo preso più che altro per i bambini, per portarli al mare eccetera, per portarli a Dettorra e niente, e loro vabbè se la godevano tutto il giorno, ma io lavoravo, quindi tornavo crepato. Beh dai, avanti Franco. Dove la prendevi la casa in affitto, Gianni? Lì a Casamare, lì. Di fronte a Pietrafitta. Che sarebbe? Nei Pettini, dove? No, non è nei Pettini, diciamo, dove c'è il centro commerciale di Sorso, la riviera di Sorso, ce l'è presente. E quello è il terzo. Vabbè, il terzo è più avanti. No, è dietro il centro commerciale, l'ingresso è quello, dai. Era il terzo Pettine. Ma era quindi all'interno della marina lì? Sì, all'interno. E niente, poi una notte sono andato a pescare e mia moglie era incinta di 7-8 mesi. Mi ha chiamato Gianni, torna subito a casa, qui stanno abbaiando tutti i cani, ci sono abbaiando, ho paura, sono da solo, ho paura. Era una serata che stavo pescando anche bene, avevo preso due orate belle, e si mangiava molto, anche una bella borborona avevo preso. E a mio malincuore sono dovuto tornare indietro, la notte sai cosa avevano fatto? Hanno messo praticamente nel cancello, ci hanno messo nella cellula, ci hanno messo un adesivo, un pezzo di nastro, l'hanno lasciato aperto dove si erano aspettato che uscisse qualche macchina, sono entrati dentro e hanno cominciato a aprire case, macchine, di tutto e di più, hanno fatto razzia. E hanno interrotto la fotocellula, segnale, quindi rimaneva sempre aperto il cancello, maledetti. E così, dai. Vediamo poi se è entrato Luca. Niente, Natalino. Siamo qua, annoiati, ma siamo qua. E perché sei annoiato? Perché sono annoiato. Non so cosa fare. Oh, Monelli, buonasera a tutti, Gio. Ehi, Tony. Buonasera, Tonino. Ciao anche a te, c'è anche chi c'è tutto, c'è Gianni, poi c'è Natalino, poi c'è Franco, poi c'è non mi ricordo il tuo nome, la Francina, vabbè, c'è mai capito, tu a luna sole, che mi arrivi a bomba. E niente, chi si altro? Luca, sì, te lo ascolto, ma non so se c'è, perché non sento parlare. Buon proseguo, io mi sono già preparato una bella cenetta di porcetti e pizzilli, che è una cosa fenomenale. Aspetto il gas, che è già cotto, adesso lo lascio raffreddare con calma e adesso ho detto accendo i baracchini e vediamo chi c'è. Saluto a chi tocca. Tu ci spieghi la ricetta porcetti e pizzilli, Io non l'ho mai mangiato, porcetti e pizzilli, Io a me se mi viene uno spizio di fare una qualcosa, al sugo però, Gianni, mi viene a fare qualcosa io la faccio, me la fai assai, a me mi piace, voi. Una ricetta che sperimenta tutto. Cappa con 3-4 fogli di alloro, quello verde fresco, così dà più sapore forte. E cipolla, olio d'oliva, proprio d'oliva, fatto proprio da un amico che fa l'olio. Quindi. niente, l'altra volta l'ho fatto più o meno così col sugo, ho soltanto col sugo, sì, era buono, però ci mancava qualcosa, oggi ci metto i pigilli, vediamo un po', due belle sbarattoluzzi, i pigilluzzi. Avete parlato in due. Ciao Tony. Ehi. Tu mi mandi roba a mangiare per Natalì. Boh boh. Hai capito Natalino cosa mi manda? Ma ha fatto meno la fame, che. E allora devo sperimentare cose belle. Sapere se ti ha fatto. Che cosa già? Poi mi fai sapere se è buono. Cappa, certo, perché no? Già il profumo è assaggiato il suo e la fine al mondo, guarda. Ma sicuramente, va. Ripeto, a me mi vedi alla fame. Ti mando avanti Carlo, Carlo. Giusto Carlo, ciao Carlo, avanti, non mi ricordo il mio nome, cara. Vabbè, perché non stavo più entrando e anche succede, dai, no, non ti preoccupare Tonino. Niente, uno sperimenta quello che vuole, basta che sia roba buona da mandare giù. Va bene tutto, va bene tutto. Tanto Carlo, io invitante non ne ho, oggi sperimento da solo, se ha fatto un casino l'ho fatto per me stesso, nessuno mi critica, ma sono sicuro che è buono perché ripeto, l'ho fatto un'altra volta ed è buonissimo. E infatti, io lo stesso quando sono solo, anche io ogni tanto faccio qualcosa particolare e alla volta successiva poi non me ne ricordo più di come l'avevo fatta e ne faccio un'altra di nuova, l'importante è che piaccia, dai. Ecco, comunque. Oh yeah, vabbè, mi va bene così, ogni tanto bisogna fare qualcosa di diverso, sennò ciccia. E niente, Natalino già ce ne fa i piattuzzi, dai. Una semplice carbonara era. Proprio mezzo piattone però. Ma cos'è, un mezzo maniche quel di Natalino? No, paccheri sono, se tu fai la carbonara con quelli te ne ringhi anche le mutazzi, come diciamo noi. Ma chi c'entra tutto il condimento udrenta, tanto è buona. E ci dà questa carbonara favolosa. Hai capito Gianni? Quindi prendi le ricette e farla anche tu. Qua, prima non si poteva fare la roba, ma adesso su internet vai e ti guardi tutte le ricette possibili e immaginabili, puoi sperimentarle quante ne vuoi. Io le faccio, quando c'è gente mi dedico a farlo, da solo non è che mi piace, invece tu ti fai anche quando sei da solo, io quando sono da solo non mi piace fare nulla di speciale, mi faccio una caprese, una cosa così la sera, non mi interessa cucinare. Gianni, io non guardo quando sono da solo, io forse quando faccio un fame mi piace assaggiare cose diverse, o mi faccio un bel brodo di pollo, o mi faccio un bel minestrone di verdure, o mi faccio pasta lenticchie, insomma ci metto qualche patata petrolico che si scioglie e fa un bel sugo denso, insomma con questo sugo che ho fatto oggi con porcetti e pigilli ho due pane quadratini quei piccolini che me lo mangio e la fine del mondo, non dico altro. La scarpetta là. L'altro giorno ho fatto la pasta con la capra marina che me ne hanno regalato una da 600 grammi e in più ho fatto il polpo di secondo e abbiamo mangiato bene. Sì, ma io cucino quando ne ho fame, quando voglia. Io invitati ne ho poche volte, succede, capito? Di solito o la domenica o il venerdì sera o il giovedì e quindi e automaticamente io faccio il barbotto, una roba buona. E voglio che cucino io perché cucino bene. No, per vantarmi, non sono chef, ma di più. Scusate. Sì, vabbè, anche io, quello che ha detto l'ho fatto anch'io in settimana, ho fatto sia il pollo in brodo che la minestra di verdure, l'ho fatto anche io. Ma non è sempre, mi piglia, quando mi viene la voglia lo faccio, non è che... Non mi attira a cucinare roba particolare, quando c'è solo non mi attira. Invece quando c'è gente mi piace fare cose buone. Scusate, riprendo io già ne sono stato sabato e domenica e ho finito oggi. Ho rivoluzionato tutto il bagno perché avevo qualche rubetto che usciva solo l'acqua bollente. E disgraziatamente come sono andato a togliere il principio e mi è rimasto in mano. Tutto fradicio. Ho scalzato, a mattina scappermi ci ho fatto il mazzo. Vado a togliere il gomito che era tutto rugginito e niente, sì, mi è rimasto tutto un casino. Hanno saldato addirittura un gomito in ferro sul superrame. Ho preso il moto piccolo, me ne ha fatti giusta, ne ho due, e ho cominciato a rompere, no, l'ho rotto molto, ho tutta la fotografia, quello che ho fatto, che l'ho fatto vedere, padrone di casa, non c'è problema. E ho aperto tutto, tutto rifatto, tutto aggiustato, adesso ho la casa come Dio comanda, perfetto, funziona tutto bene, ed è tutta un'altra cosa. E cosa posso dirti? Sono un po' stanco, sì, mi ha crepato, infatti ieri come mi sono coricato, mi sono subito addormentato. Ma con il messaggio a buonanotte ci ho mandato a nessuno. Va bene, Carlo, riprendi. Sempre facendo, insomma, io lo stesso. Stamattina ero in via Nulvi a casa di un amico, ha ragione Gianni, ormai con l'era di internet metti YouTube e trovi tutto. Ha perso le chiavi di casa, il figlio, e lui aveva paura che le aprisse sotto casa, che gli aprissero l'appartamento. Dice, non è che mi sai cambiare la serratura. Ho detto, qualche serratura l'ho cambiata, però bisogna vedere che tipo è. Ho messo su YouTube, c'era identica, quindi siamo andati da Palmieri velocemente, presa la serratura della misura giusta e l'abbiamo cambiata in 5 minuti. E ormai così, niente, quindi stai lì un po' inchinato e due dolorini li senti sempre quando non sei abituato. Poi non ti dirò cosa c'era sul tavolo, sul potato freezer, tutto, guarda, tra chiavi e di tutto c'era, un casino. E purtroppo a me mi sono gli attrezzi. Poi ho dovuto scalzare anche in profondità all'interno, perché io ho anche la tagliatura in tutte le misure, quindi devi entrare con la piccolina, girare, il superrame, tagliarlo perfetto, sennò i racconti non li puoi mettere. Ed era un tubo da 14 col calibro misurato, sono andato da Brico, mi ho preso i pizzi, poi l'ho anche incementato tutto quello, il fosso che ho fatto. Avrò fatto un fosso di 25 cm, largo sui 15 cm. Sì, ce la fa del genere. Sono contento di quello che ho fatto. Beh, questi lavori ho fatto un bypass praticamente, perché era tutto un casino, proprio non arrivava l'acqua, nella tubazione era proprio fradicia, quello dei bidet. E quindi automaticamente ho fatto un bypass e adesso è perfetto, non c'è problema. Ok, Natalino, non ti voglio addormentare, dai, riprendi. E oggi cosa fai di bello da mangiare? Spaghetti ho fatto, il sugo. Poi un po' di fagiolini e delle patate lesse. Basta. Che male so, già va bene lo stesso. Io oggi ho detto, voglio stare a fare un pochettino, cucinare qualcosa di diverso. E quindi ho fatto questo. Ah, vabbè, ma insomma, siamo rimasti in pochi. Gianni, e te? E in pochi. Devi anche pregare che ci siamo stasera, perché io sono sere che entro, non risponde mai nessuno. Chiamo, niente da fare, allora a prendermi e vado a cantare. Ecco perché è andato io, c'è il canale dei morti, non mai nessuno, ha ragione. Ma è inutile che lo pusci la mente, non entri. Se entriamo tutti, vediamo che ci siamo. Io per 4-5 senate sono entrato, acceso, facendo tutti gli apparecchi per farli scaldare, niente da fare, non entra nessuno. No, io sono entrato, spazio, guarda, fisico sul 10, non c'è nessuno, sull'11 c'era uno da fuori che arrivava 9-10, sparato, una radio a bomba proprio. Sì, non ci sono i lineari, per quello arrivano così. Franco! Lo sento anch'io quello sul canale 11. Era anche in AM, se non sbaglio, Tony. Sì, scusa fra che ti ho lasciato il parcheggio, raga. Io vado meglio il microfono, sono peggio delle femmine, raga. È come faccio una dita in mano. No, ne approfittato, intanto stavo parlando in stereofonia con mia moglie, con l'orecchio ascoltavo anche a voi. Vabbè, riprendi la zuzia, anche tu la tua, dai. Va, ripeto, stavo parlando in verticale, quindi ho capito che hai rifatto il bagno, quindi hai rotto il placcaggio e tutto. No, un pezzo solo, una striscia di placcaggio, capito? 25 centimetri in discesa, perché è sceso sotto il pavimento. E niente, hanno fatto casino che ha fatto quel lavoro, e quindi acqua io, non mi arrivava nulla, io che mi lavavo, vedevo bruciare, ma ho ciagallà, ma non c'è nada, la pepe sono incazzato. Poi mi ha alzato il cappello, me ne farà da verni, al giorno passa, ho aperto il magazzinetto che c'ho e ho preso molto piccolo, ne ho due cacche, mi sono butti a faccia, uffizia! Perché mi ricordo un tipo, invece di rompere il placcaggio dalla parte, diciamo, del bagno, che non avrebbe trovato più quei mattoni antichi, cosa ha fatto? Ha rotto la parte posteriore, quindi dalla camera da letto, ha fatto la traccia nuova nel tramezzo, era un tramezzo fortunatamente, e non ha neanche tolto i tubi vecchi, ha fatto l'impianto nuovo e poi ha rifatto la muratura, rasato, tutta dalla parte di dietro, senza rompere niente, dai. Ma no, io giustamente i raccordi che ho messo, poi ho messo le curve da mezzo pollice e il raccordo da 14 per il rame, poi tutto cementato, cioè perfetto, è asciutto, allora poi ho continuato e ho fatto un bypass per il BD, perché praticamente acqua fredda proprio zero nel tubo e tutto fratto sottoterra, chissà cosa, o hanno schiacciato il tubo e il rame, non so cosa hanno fatto. Comunque, io quello non l'ho neanche aperto, perché ho detto a togliermi lì, a rompere lì e poi è un casino, no. Niente, mi sono fatto un bypass più leggero, più veloce, e così ho fatto. E vabbè, dunque l'importante è fare questi lavori, dai, perché se va a chiamare l'idraulico, c'è un bel di nato, l'hai fasciato, tutto quanto, quello che ho fatto io, meglio niente. Ti sarebbe costato minimo, almeno 500 euro, minimo. E io faccio più lavoro idrici e elettrici, quindi a me non me ne affronti nulla. Io ti giuro, Fra, non ti comballe, non ho mai chiamato un operaio a casa mia, mai. Mi sono fatto il placcaggio, mi sono fatto il pavimento, mi sono fatto quello e quell'altro, tante cose. E ho fatto anche impermeabilizzazioni ai tetti con cartone catramato da 4, quindi non ho problemi. Quindi, ora posso dire, sono tranquillo, ma in casa mia posso tranquillamente lavarmi e non bruciarmi. Ma anche io dove arrivo mi arrangio, diciamo. Poi, è logico, dove non ci arrivo chiamo gli altri, dai. Natalino. Sì, vabbè, dai, io vi lascio che... Adesso ve lo conosco un po' di più. Che me ne vado a fare qualcos'altro. Guarda, di più interessante. Ci sentiamo alle prossime, no, tanto sono annoiato, gatto, non so cosa, dove sbatto la testa. Attenzione, lo sotto gli spaghetti. Poi perché devi essere annoiato? Perché? C'è una compagna vicino che ti fa un bel mangiare, e si è annoiato. E sono annoiato, con tutta la gira. Mi hanno disturbato quando ero addormentato e non ho più dormito. E so sempre i bugiardi, no, che mamma mia, va. Meglio la notte. Vabbè, dormi stanotte, dai. E fammi il pigiolino, domani mica devi andare a trovare gli altri, nel bisintaggio domani, non devi mettere a conto nessuno. Avanti Gianni. Questo periodo qua anche io mi sto alzando sempre alle 9, 9 e mezza. Prima sempre alle 7 mi alzavo. Adesso con questo orario nuovo tutto sballato, mi sento, strano. Ma io guarda, prima mi alzavo alle 5, 4 e mezzo, 5, 5 meno quarto. Adesso è la stessa cosa per me, non cambia nulla. Ho sempre quel vizio, quell'abitudine là. Avanti Carlo. Io invece i miei orari sono particolari. Domani mattina sveglia alle 4 meno un quarto, alle 4 e 20 esco, alle 5 sono al lavoro. E ce li ho tutti sballati io gli orari, perché poi ti abitui per 4 giorni di mattina, poi c'hai libero riposo, poi rientri di sera e poi fai qualche notte, capito? E quindi spero un giorno, quando finirò di lavorare, di stabilizzarmi e farmi le dormite come le facevo un tempo, se no pazienza, ci alziamo, ci facciamo il caffettino e si va avanti lo stesso. Vai Fra. Volevo chiedere a Carlo, è possibile che io senta all'aeroporto da qua col portatile? Sulla frequenza, se non sbaglio, sul 156 spiccioli. Ma in V? La frequenza è 156 e 700, a volte cambia. Per me, da come parlo, sembra che sia roba di aerei, di aeroporto. Sì, a volte interferisce su quella, però loro operano in UHF, capito? Quelle sono le comunicazioni di terra, tu sicuramente sentirai il centraggio dei bagagli, quelle cose là. Sì, e molte volte perché c'è un piccolo ponte, capito, ed è il VHF e non si dovrebbe sentire, invece si sente comunque, però le trasmissioni là sono tutte in VHF. Sì, ma arriva forte qua, è proprio segnale pieno, perlomeno. Io ho un antenino, una finestra, lo ricevo chiarissimo il segnale. Tu metti 440, 150 e senti quelle comunicazioni che senti in V, capito? Le senti in UHF. Adesso l'ho segnata, dai. Cosa metto? Comunicazioni aeroporto, dai. Le comunicazioni di terra sono quelle, senti i bagaggisti che comunicano con gli operatori dell'handling, sotto bagagli, come li mettiamo, 100 kg a destra, 50 a sinistra, capito? Perché devono fare il centraggio quando fanno il piano di carico, e quindi sentirai quelle cose lì, anche check-in, chiamate, eccetera. Sì, come si chiama? Per bilanciare diciamo il carico, dai. Esatto. Però tutte quelle comunicazioni sono su 440-150. Invece io li sentivo sui 156 e 700, 650, più o meno è quella frequenza lì. Sì, lo so, perché anche io una volta così ero in ricerca in VHF e ho detto cosa ci fanno qua su e mi hanno spiegato che è un ponte ripetitore, capito, che li manda in VHF, però ti posso garantire che le radio hanno frequenza unica, senza scansione, senza niente, capito, senza toni, quindi le senti così, cioè terra a terra e 440-150, invece c'è torre, terra e 440-450, lì senti altre comunicazioni. Intanto fa piacere sentire qualcosa di diverso, dai. 440-450 la seconda che mi hai detto. Esatto, sono quelle le due, poi ce ne sono altre, ma le altre sono diverse. Dai, quelle che possiamo ascoltare, dai, basta. Avanti Gianni, avanti, chi tocca? Gianni o Tonino? Gianni, che parcheggio hai? Ehi, non sono il parcheggio, a me piace anche ascoltare, e vabbè, e anche quelli ultraleggeri, non li ascolti mai gli ultraleggeri, fra? Non sono le frequenze, voi datemi qualcosa, io ascolto. 135 qualche cosa, adesso non me lo ricordo esattamente, però io qualche volta li ho ascoltati, ma poi adesso non ne sto piacendo il ricevitore, non mi ispira più. E io sono quel portate lì noi. Vabbè. Ci sono diverse frecce, anche quella frequenza dove ti dicono il meteo. Quella ce l'ho. Ti dice mare, voci, Sardegna, eccetera, eccetera. Quello lì interessante per chi va a pescare. Oh già, PMR trasmette UHF praticamente. In UHF? Non è UHF. E adesso lo sai che mi sta mettendo in ponte, non me lo ricordo più. Avete parlato in due. UHF, non UHF. Quando ha detto vi mettete in ponte mi piace questo, rimane proprio in tema. Peccato perché io sono andato su internet e qua mi dà consapevolezza UHF. E UHF? 446. Quello Carlo non ci va a ascoltare quelle frequenze che hai detto. Come Tony? Con PMR non si può andare ad ascoltare l'aeroporto, quelle frequenze che hai detto. No, perché le frequenze PRM sono da 446.00625 a 446.097.937.500, quindi no, non ci vanno, quelle sono limitate là, per quelle bisogna prendere un ricevitore. Se metti 134.125 in AM senti la torre di Fiumicino, quella si sente forte perché c'è ripetitori anche qua, arriva sino a Olbia eccetera, e quella è su 134-125 in AM. Poi c'è la Torre di Cagliari che è 120-600, poi c'è il controllo dell'avvicinamento che sono a 115-750 sino a 121-600, insomma frequenze delle bande aeronautiche ce ne sono tante da sentire. E il mio PMR va anche in FM, va tutto, posso mettere in posta la frequenza che voglio. Ho quello PMR, uno è portatile, l'altro ci ho potuto attaccare dall'avventatore e per casa, è carino. Sì, infatti, ma l'unica cosa è, per dire, un bel ricevitorino collegato a un'antenna esterna e insomma qualcosa da sentire c'è sempre, dai. Cioè, non dico come in passato, perché ormai sono tutti passati con sistemi nuovi che sono difficili da decodificare, capito? Però ci sono tipo le frequenze aeronautiche che sono libere, quelle della nautica e altri servizi che già qualcosa si sente. No, perché oggi mi hanno regalato un'antenna VHF bianca, bella, bella veramente. E quindi me la voglio attaccare con calma in questi giorni, me la metto fuori. Che te ne hai, Daimon? Non lo so, non me ne intendo, guarda, è lunga, vetroresina bianca. Con dei 3 radiali sotto? Niente 3 radiali, dice forse era per macchina questa antenna. Allora non lo so. A meno che non sia la banda marina. Non lo so, metto VHF. Io ce l'ho quella 3 radiali che scendono e lo stiro centrale piccolino sopra. Quella ce l'ho. No, la Daimon in genere, vabbè, ci sono, c'è la X300, sono un sacco di modelli. Però sono un po' più alte e poi i radialini sono corti invece. No, quella che ho io è proprio una mini, diciamo, VHF stesso. Sembra una mini Grand Prix, proprio piccola. Ma comunque. Ascoltavo prima col PMR quello lì e poi invece adesso l'ho tolta, adesso voglio mettere questo che mi hanno dato. Andà bene, Meda. Natali, ci sei ancora, sì? Poi l'abbiamo annoiato, l'abbiamo. Chi so? Io gli spaghetti lo stavo aspettando. L'hai smontato col progetto EPG, lì. Niente, sono andato quei giorni scorsi a Porto Torres, nella via centrale, e da Cristallo salendo sulla sinistra, quasi arrivare alla piazza, c'è questo negozietto che fa da macelleria, fotovedura, vede un po' di tutto, la verità. E c'è il macellaio che c'è la carne buonissima, infatti io vado con questa persona che lui compra sempre per la provvista di carne. Ho visto questo pezzo di porcetto fatto a pezzi e ho detto, un chilo e mezzo. E quindi me l'ho fatto l'altra volta e se me l'ho fatto anche stasera. E quindi, siccome ho preso altra roba tempo fa e ho visto che c'è la carne veramente buona, e io vado sempre lì. Ehi, il sapore già si sente quando la carne è buona. Poi vado a cucini. È tutto un altro profumo. Gianni? Da Carbonici andato. Non so già come si chiama. Salendo sulla sinistra, rimane prima di arrivare alla piazza proprio. Allora, salendo da dove? Da Po. Bravo, da Cristallo. Tu vedi da Cristallo e sale in piazza. C'è la via centrale, sempre sulla sinistra. E poi ti trovi, prima di arrivare proprio quasi alla fine, sulla sinistra questo negozio che c'ha una, due, tre vetrine, due vetrine all'ingresso. No, non ce l'ho presente, sulla destra c'è Carbone, quello lo so, però sulla sinistra non ce l'ho presente questa macelleria che c'è, meno che sia nuova. No, c'è dopo il po', mi ha detto, ti accompagno io a comprare la carne lì. E io so già un po' di mesi che sto andando lì, la verità. È un macellaio molto empatico, scherza, e poi dice no, non te lo consiglio il muscolo, se no questa qua che è più buona, lì, perché lo conosce, capita a lui. E quindi io mi sono c'è la roba che presenta lì, la verità, è veramente stupenda già. Poi l'ho comprata ed è tenera, poi vedo un capocollo che un signor capocollo si vede che è fresca. Se uno vende la roba ce la sopra fresca normale, se non vendi ti rimane la carne e non è mai giornaliera. Ma poi adesso la carne sta arrivando tutta sotto vuoto, non ne stanno più arrivando mezz'ere, questa roba qua è difficile che arrivino le mezz'ere e lavori come prima, adesso ci sono già pezzi lavorati, tu l'ho fatto che aprire la busta e tagliare a pezzi. Va bene, Franco, ripresa. Rilanciamo a Carlo che è un po' in parcheggio. Carlo. Io lo stesso, questi giorni mi sono messo a fare tante cose, cosettine, mi sono cambiato il miscelatore del lavello di cucina perché mi stava perdendo acqua all'interno. E come sono andato a stringere, c'era la basetta con la guarnizione che si è spaccata praticamente, mangiata dal calcare, e anche lì ho dovuto togliere tutto quello che c'era sotto il lavandino, e poi mi sono dovuto procurare una chiave a tubo per togliere il blocco, quindi ho tolto quello e ho messo un miscelatore nuovo, e adesso è tutta un'altra musica, senza basetta, la guarnizione ce l'ha sotto il corpo unico, e così se stringi quanto vuoi la basetta non si rompe più perché non ne ha più, capito? Un miscelatore acqua calda, acqua fredda, l'ho pagato 46 euro da Bricom, è bello, eh? E io ogni tanto cambio qualche cartuccia quando vedo che funzionava, e quando perde, a volte basta solo cambiare la cartuccia interna, quella ceramicata, eh? Sì, ho capito, Fra, ma non era questione di cartuccia, proprio mi penetrava, perdeva acqua dalla cannetta, la cannetta era consumata e mangiata, quindi l'acqua scendeva nel foro di fissaggio, capito, perché la guarnizione non faceva più presa, perché si era spaccata la basetta, capito, era tutto mangiato dal calcare, magari anche i detersivi che usi, l'hanno corroso, e non era di materiale buono evidentemente. Questo invece è tutto acciaio inox, è un blocco unico, non ha nessuna basetta, cioè la base ce l'ha nel corpo unico, capito, nel miscelatore, la guarnizione c'è la scanalatura, c'è la guarnizione tonda, quando lo fissi da sotto praticamente se lo tira in giù ed è perfetto, non scende più neanche una goccia d'acqua. Però come diceva Tonino, no, poi alla fine ti stanchi perché sono quei lavori che non fai da tanto tempo e magari devi mettere in moto muscoli che erano dormienti, capito? Alla fine l'indomani ti fanno male tutti i muscoli del collo, delle braccia, capito? Però dai, è importante riuscire ad aggiustare le cose. Tutto qui. A me l'unica cosa che mi dà fastidio adesso, perché da quando uso gli occhiali, secondo che movimenti fai, non ti accompagna la lente, quindi devi fare sforzi, come dici tu, assurdi. Ma poi a me mi ha provato questi due giorni che mi ha crepato, perché mi spiego, allora io ho avuto anche l'operazione alla schiena e quindi a me poi ho avuto anche l'incidente, ho fatto il ginocchio e inginocchiarmi sotto a lavorare, quella mi ha provato un re, e quindi stamattina ero così strano, le ossa mi sentivo tutto, che cavolo, proprio si vede che ero proprio legato, cioè certi lavori non molto che non le facevo, andare sotto il lavabo, e quindi è così, Carlo. Sì, magari con i dolori, però soddisfatto perché sei riuscito a mettere a posto tutto, dai, ti passa di nuovo l'acqua fredda, così puoi miscelare, non ti bruci, quindi insomma ne valsa la pena, dai Tony. Cappa, quello senza ombra di dubbio. No, ma io grazie a Dio ho imparato molto, perché ho fatto quasi 25 anni lavorando per la provincia e tutte le scuole superiori, facevo le manutenzioni sia di idrico che elettrico, e mi ha giovato molto, perché nei tempi quando poi d'estate ogni anno non c'era niente da fare, mi si faceva fare altro, e cioè serramenti, tapparelle, ho imparato anche quello, e ho imparato a fare che roba lì, e quindi mi è giovato perché molte cose io le so fare e le faccio per quello. E io quando non le so fare già mi aiuto, io anche il forno a microonde mi sono aggiustato da solo, che è un pochettino difficile, però ci sono riuscito, ho cambiato solo il magnetron, una trentina di euro, ho scaricato insomma la corrente che c'è dentro nel condensatore, no, prima di operare, e poi è stato un giochino da ragazzi, però ti aiutano molto i tutorial che trovi su YouTube eccetera, molte cose riesco ad aggiustarle, e quando ci riesci risparmi un sacco di quattrini, come hai detto tu, chiami l'idraulico, ti chiede 400-500 euro come niente, capito? E quindi anche cambiare un miscelatore sotto il lavello, io penso che tra miscelatore e tutto, perché loro ti portano tutto, 200-250 euro te li facciano pagare. Come minimo sì, perché io sono andato a Bricom e mi sono fatto il miscelatore che ho voluto io, capito? E quindi ci volevo anche, per esempio, anche il riduttore che ho preso, che sono da 3 ottavi a mezzo pollice. Cioè io mi sono prima tutto studiato quello che ci voleva qua, me lo sono stato per esercarsi, mi dimenticavo, sono andato lì e ho comprato tutto quello che mi serviva. E quindi sono venuto qua e ho fatto tutto quello che dovevo fare, e sono a posto. La fregatura era soltanto una cosa, che sono dovuto andare di nuovo da Brico, io chiamo Brico, beh, anche se ha cambiato nome comunque. La fregatura era una cosa, perché io ho cambiato anche la piletta, dato che c'ero. Ma la piletta purtroppo la viene dalla pollice, questa era la pollice un quarto. E ho preso un tubo spiralato di scarico e non c'era neanche la guarnizione. E io avevo, ho 1000 guarnizioni, ma mi manca proprio da un pollice un quarto. Sono dovuto andare a comprare una musica di queste guarnizioni, porca miseria. Avanti Franco. Cosa hai messo? Quegli affari tipo a fisarmonica, quella. Guarda, quei tubi? Sì, sì, sono le migliori che ci sono. No, lo so, perché si ferma un po' di roba, perché è tipo fisarmonica, si lascia quel sedimento dentro, non lo so. Io l'ho messo da mia madre, ma non sono molto soddisfatto. Comunque, come dici tu, ormai i tubi sono cambiati. Se io dovessi cambiare una cannetta delle mie, quelle in ottone, le nuove ormai sono in plastica e hanno un diametro più grande, dovrei cambiare anche io la piletta. Perché è tutto diverso. A me non mi piace il sifone perché è un casino, sempre devo pulirlo, aprirlo, vabbè, io sto molto attento, non ci butto niente dentro. Io in tutti gli accessori che ho qua, sia lavello che lavabo che BD, ho tutto lo spiralato, tutto qua. Avanti Gianni. E anche io avevo messo quello nel bagno. E è più facile, devi stare a tagliare, a fare, tagliare su di giù, lo prendi, lo metti e è fatto il gioco. E lo allunghi come vuoi tu a fisarmonica, quindi li fa anche il collo d'oca, le fa e si apposta. È molto delicato la ghiera, quella che c'è, quella che va a friggere proprio, quella lì è delicata, se dopo un po' si ossidano, o lo smonti ogni tanto, lo pulisci, ma lo ingrassi appena appena. Sì, è una lega molto sensibile, bisogna stare attenti, quello è vero. Ripeto, sono molto comodi, perché fai tutto in un attimo. Sì, poi c'è la guarnizione tecnica che c'è lì, praticamente, la devi cambiare anche quella. Niente, quello che si pone che mi ha scritto, un pollice e quarto, praticamente era un pezzo grosso, tutto col seghetto, e ho preso il pezzo più fino per entrare proprio nello scarico, nel gommone. Sì, sì, bisogna arrangiarsi, anch'io un po' mi sono arrangiato. Ma a me questi lavori li ho sempre fatti, quindi non c'è problema. E niente, il proverbio dice sempre impara l'arte e mettila a parte, poi quando mi serve uso la tecnica che ho imparato, grazie a Dio sono andato sempre bene. Avanti Carlo. Sì, è importante riuscire sempre a fare tutte queste cose. La cosa migliore è quando riesci tu, risparmi soldi. Sì Tony, comunque hai ragione, i flessibili che mettono in dotazione nei miscelatori, no, anche quelli buoni, sono quelli con l'attacco da 3 ottavi e quindi per collegarli ci vuole la riduzione che poi aumenta a mezzo pollice, no? Poi gli attacchi dei tubi sono da mezzo pollice, per cui meno male che io ne avevo giù, io c'ho una cassetta di idraulica e ne ho trovato due belli nuovi penso sia materiale cromato perché erano luccicanti, belli, e quindi mi sono cambiato anche io quegli attacchi lì, capito? E ho attaccato direttamente i flessibili là, tutto bello fiammante adesso, cioè, almeno 5-6 anni durerà, mi auguro. A voglia, ma io ripeto, ne ho di quelli nuovi sono, guarda, sì, in effetti, maschio, 3 ottavi a mezzo pollice, perché il maschio attacchi sotto il miscelatore, poi va a finire sotto che c'è la femmina sempre 3 ottavi, quindi devo usare quella riduzione da 3 ottavi e poi va a finire a mezzo per attaccare il muro. Vabbè, comunque poi se non c'è prende un altro flessibile che sempre con la riduzione, capito? Ma comunque, questa lì mi sono trovato, io ho flessibili di ricambio e c'è una sacco di roba, c'è un borsone che pesa all'idea di Dio. Poi ho 2-3 di quelle macchinette per tagliare il rame, che tu giri intorno, poi stringi la manopolina, poi giri di nuovo e ti esce un taglio perfetto. Anda bene Meda, Gianni le prendi. Ho capito quali sono, quelli che hanno la rotellina tagliere. Cappa. E a tubi. E già almeno sbagliare qualche giorno ci metti qualche altra cosa. No, io stavo pensando a te con la coccata facendo il bidet, poi non ho detto nulla. Ma io gli ho detto, c'è la Maria, non me ne frega niente. Ho detto, io mi brucio le sfere quando mi lavo. E non va bene. E non va bene no, perché mi c'è rosa, poi devo mettere la pasta fissa. La pasta fissa. Invece una volta mi ricordo, forse ancora così, il bidet aveva attaccato direttamente le cannette al raccordo a muro. Addirittura. No, beh, è semplice, quello ho fatto il bypass, perché la tubazione dell'acqua fredda era proprio morsa, eh. Ho provato in mille maniere, tra che la sondina, nulla, non ce l'ho fatta, allora, niente, praticamente ho messo un D nell'uscita con quella fredda, c'è stato proprio che è forte l'acqua lì. E col D ho messo uno flessibile, l'altro ci ha messo praticamente il pezzo che va giù e va a finire collegato sempre con la riduzione al miscelatore che c'è del bidet, all'acqua fredda. E ho ottenuto l'acqua fredda e l'acqua calda sono a posto. Queste tubature, specialmente dove si trova la raccordo in ferro, che si chiudono e l'acqua non passa più. E infatti c'era qualcosa in ferro dentro che hanno saldato al rame e ha fatto un casino. Se vedi come sono i pizzi, è da spavento. Ecco perché non usciva epoca. Poi va bene, il tubo anche schiacciato. Qualche goccia arrivava, c'era un piccolo buco, ma non ce la faceva. Ho provato a pulire tutto quanto, ma con le vascia. Proprio schiacciato da sotto del pavimento. Chissà chi ha fatto quello. Poi si chiamano idraulici. Ma come fai tu a saldare il ferro con... Metti lo tolle, dai, cazzo, ma non ho il ferro con il rame. Ti ho notato, quando usa raccorderia buona, perché sì, la paghi un po' di più, ma almeno no, o metti ottone o metti acciaio. Gaffa, confermo. Avanti, Carlo. Sì, quando devi fare interventi del genere, ha fatto bene Tonino, ha scavato e ha raggiunto il punto debole, ne ha tirato via tutto, ha messo i raccordi nuovi e buonanotte, se no rimani senza acqua davvero, perché i vecchi impianti in ferro sono micidiali, quelli si chiudono e non passa più niente. A me era successo tanti anni fa a Bonorva, quello, nella doccia non passava l'acqua fredda, quindi dovevi farti la doccia e cambiando la temperatura dello scaldabagno, capito? Perché sennò ti ustionavi. Poi alla fine mi ero scocciato, anche io ho preso, ho tirato fuori una fila di mattoni da 25 di placcaggio e ho sostituito, praticamente c'era il tubo dal miscelatore doccia nel muro che arrivava su alla doccetta, praticamente completamente arrugginito e tutto chiuso, intasato, sostituito con un pezzo di tubo di rame e ha ripreso tranquillamente a lavorare. E poi ho richiuso tutto il placcaggio, non avevo quei mattoni, ma era un bagno, diciamo, anche vecchio, avevo trovato dei mattoni che si adattavano, li avevo messi bianchi, avevano lo sfondo bianco gli altri, e quindi neanche ci facevi caso che c'era quella fila di mattoni diversi, perché era dentro proprio il box doccia, sembrava quasi un disegno fatto apposta, e mi era venuto fuori un bel lavoro e funzionale al 100%. Con i tubi bisogna avere un po' di pazienza, però poi alla fine già la trovi la soluzione. Vai Tony. E la cosa che guardo molto è quando faccio questi lavori, prima di coprire al cemento, non è che copro direttamente al cemento i tubi dove metto i raccordi assolutamente, però metto carta straccia, ferro, intorno, involto sul cemento, eccetera. Lascio prima di chiudere, lascio in pressione, perché non vorrei che perda qualche cosa, poi un caso devi di nuovo aprire, allora niente. Lo lascio almeno mezza giornata, guarda se perde, in pressione, non in pressione, eccetera, apro, rientro, chiudo, niente, ho visto che tutto perfetto asciutto, che io ho cementato. Poi riapro di nuovo, ho visto che perfetto, neanche il cemento che è grigio, chiaro, perché è asciugato, non c'è nessuna perdita. E ho fatto un bel lavoro, dai. E quello, mi congratulo con me stesso, ho imparato bene, dai, tutto qua. E sono soddisfatto, perché me l'ho fatto io. Anche qua non si usa più, ormai, sono in Argentina per esempio, con tutti questi impianti, non li fanno mica sotto traccia, tutti fatti perfetti, dritti, a regola d'arte, tutti esterni. Si usano anche quei tubi in plastica che vanno soldati, cioè macchinari, ma goccia o medina, o voi. E io penso, ho messo un pezzo di multistrato, c'è molti che usano un flessibile lungo anche un metro, ma a me non mi piace le cazzate, io ho messo il multistrato, per misura, tatazza, sagomato, ho messo dentro. E giustamente i pizzi per il multistrato costano. Allora, il rame costa caro e mentre gli accordi costano poco. Mentre il multistrato costa poco, ma tutti i pizzi costano bene. Comunque, il multistrato è una cosa che si dura molto di più, dai. Non lo so, sono tutte cose nuove da testare. Adesso poi i raccordi li metto anche quelli a crimpare, poi ci vuole la crimpatrice. K, e quelle costano, eh? Anche quelli sono belli, dai. Gianni? E vabbè, io invece ho lo scarico dell'avvello di cucina che ho di tanto in tasca. Ho chiamato l'idraulico, con la pompa me l'aveva stasato, adesso di nuovo se di nuovo, detto che se lo faccio ma di nuovo dovevo smontare tutto l'avvello, bucare in terra, fare il buco in terra e cambiare tutta la tubazione, fino ad arrivare allo scarico. Addirittura fino alla braga del gabinetto. Esatto. E uno è venuto e non era riuscito a fare nulla, abbiamo fatto pagare 90 euro lo stesso. Non è riuscito a stasarlo. Poi ho chiamato un amico, è venuto lui, ha aumentato le atmosfere, perché quello ha detto non fa aumentarle perché se no spacca il tubo. Invece questo amico mio l'ha aumentato e sento pium, è proprio è partito e è scesa l'acqua tutta in una volta. Sì, ma già è vero, puoi crepare il tubo secondo quante atmosfere metti. Certo non parti con, parti prima con 1, 2 atmosfere, 3, 4, ma quando cominci a aumentarti questi assetti è pericoloso. Infatti il mio amico me l'ha detto, o la palla spacca già, perché queste atmosfere non ce la fa. Dobbiamo aumentare. Lo aumentiamo, si può anche spaccare il tubo, però ci può tentare, dai. Abbiamo messo prima questo liquido che si chiama Ferrari. Poi dopo che l'ha messo questo liquido ha preso questa molla, con questa molla l'ha fatto, ha girato, ha fatto e poi ha usato questa pompa e l'ha stasato di brutto. È stato per anni che andava bene, adesso di nuovo si è intasato. E con tutto che io i piatti prima di lavare li pulisco con lo Scottex, quindi non è che lascio olio o roba del genere. Ma io ho una sonda di 7 metri che infatti gira tipo a mulinello, giri, scendi, spingi giù, poi risali e raccogli sulla montezza perché c'è un gancio alla punta, come è fatto. E quindi sì, ma come fai a intasarsi solo con l'acqua? Cioè già, dato che tu hai detto giustamente pulisci con lo scotch eccetera eccetera, a me non si è mai intasato qua, mai, perché io c'ho anche maretina qua, quindi, e quando guardi qualche pezzo di qualsiasi cosa, poi vado alla pattumiera e butto la pattumiera. Ma io prima di lavare li faccio lo scotch anche nelle pentole, li faccio, ne consumo un po' di scotch, non me ne frega, però li pulisco tutti. Eppure te lo fa lo stesso, ha detto che poi c'era anche il detersivo. Boh, cosa usa il detersivo? Io uso quello liquido che prendo per la limone ed è buono. E anche io uso quello liquido al limone, però non lo so cosa potrà essere, se si forma qualche patina, qualche cosa, che ne so. E poi alla fine si intasa. Che poi lo sai che cos'è? Che chi mi aveva messo la cucina, chi mi ha piazzato la cucina, c'erano due scarichi, uno per la lavastoviglie e una per il lavandino. Cosa ha fatto questo? Ha messo tutto in uno scarico, sia la lavastoviglie che il lavandino. L'altro scarico l'ha lasciato libero, capito? No, guarda, io allora, fianco a me la buonanessa Graziella, adesso non c'è più, poverina, si tasava sempre, allora ha dovuto smantellare tutto, hanno fatto un casino, un tubo unico e passava tutto, lo scarico della doccia, lo scarico del lavandino, lo scarico del lavello che c'era in cucina, un casino. Ho tutto svuotato, gli ho rifatto tutto l'impianto da tutto indipendente, tutto attaccato alla braga. E dirò che non ha avuto più problemi, è stata così contenta e là ho preso 1.000 euro, l'ho preso, che è smontato il pavimento, però ripeto io ho fatto un'altra cosa, io mi sono guadagnato 400 euro pulite e pulite per fare soltanto l'impianto idrico. Se il centro è dato a questa piccola impresa che conoscevo io, che mi ha dato l'operaio, ha smantellato tutto, ha pulito tutto e ha fatto anche il pavimento, il massetto. E io ho fatto tutta la tubazione. Vabbè. Ci sono anche quelli che prendono gli idraulici, che prendono i muratori, ci succede così lo stesso, è la stessa cosa. E vabbè, comunque, probabilmente io penso che sia la lavastoviglie, perché quando usi la lavastoviglie magari ha sempre lo stesso scarico e magari ha... anche se la pulisci si formano delle cose sotto, bisogna smontarla ogni tanto e magari manda qualche sporcizia, qualche cosa anche la lavastoviglie. Non lo so. Vabbè, guarda, non mi parlate pure di idrico, per almeno una settimana voglio stare tranquillo e sereno. Avanti, Franco. No, anch'io ho avuto a che fare questi giorni, però uso anch'io quella sonda. Per adesso con quella sonda ho sempre liberato, è lunga, però le ho attaccato un po' dietro, la punta, 5-6 cm dietro. Tipo, ti ricordi quella sagola che si usava per il palloncino da sub? Ho fatto una specie di grappolo a nodi, perché solo con la sonda a volte, dove c'è lo scarico della lavastoviglie, praticamente la bucava, era una poltiglia di grasso, la bucava e basta questa sonda, invece così prova un bel malloppo, va avanti e indietro, me lo libera in un attimo qua. Ma per... diciamo, se la giri la sonda già riesce a liberare, dai. No, quella poltiglia, guarda, è una specie di gelatina, la buca e poi ne torna indietro senza liberare, perché è una crema, è proprio una crema di grasso che scioglie la lavastoviglie, si attacca alle pareti e diventa una poltiglia. Guarda, è una porcheria, secondo me è proprio la lavastoviglie. E vedi, nella lavastoviglie uso quel detersivo a quadretti, non quello liquido, quello a quadretti, ce la metti dentro e poi chiudi. E magari anche quello lì che rovina tutto. Sì, ma le pastiglie, quelle finisci, quelle pastiglie, che c'è tutto, brillantante, tutto. Però ripeto, con la sonda io ho sempre risolto, sempre. Confermo. Cappa è meglio la sonda, dai, 100.000 volte, io uso sempre la sonda prima di buttare aria a tutta l'atmosfera. Io me la sono comprata da 7 metri, c'è la manovella, giri e c'ha la punta, c'ha una specie di beccuccio strano, no? Con quello riesco ad arrivare addirittura dalla vella in cucina sino alla braga del doppio servizio, perché si sente. Sono i detersivi che, come diceva Franco, lasciano questa a lungo andare una sorta di gelatina, no? Che si attacca alle pareti e poi pian piano con sporcizia eccetera si chiude all'improvviso e niente. Però l'ideale è bucare con la sonda e ne tira un sacco di porcheria, poi una pompattina fa scendere tutto verso la braga e dopodiché devi usare quei prodotti che ti puliscono le tubature di scarichi senza danneggiarli, perché si attacca tutto l'olio, le cose viscide, molte volte sui lavelli ci va di tutto, porcheria, residui di sugo, che comunque una componente di olio c'è sempre, capito? E poi i detersivi fanno il resto, per cui a casa è sempre meglio tenerla una sondina, poi una di quelle pistoline di plastica, le vendono anche lì da come si chiama, da Bricomen, adesso è Bricotech, non so cosa è, hanno cambiato il nome, si spende poco e con una ventina di euro ti compri tutto il kit, la molla con la pistolina, con i vari attacchi, e io idraulico mai chiamato a casa, me le risolvo sempre da solo queste cose. Fai bene Carlo, perché sono sempre parecchi sordi. Poi secondo chi trovi ti fa pagare anche la chiamata, c'è la via delle luci. Io ho ripreso subito io perché devo chiudere, perché mi sono ricordato che devo chiamare la mia parallela, che devo fare 1,4 m di pavimento. Quindi sono spaccati i mattoni, devo toglierli, fare il massetto e rimettere il pavimento. Ora con l'ante glielo faccio poi, vediamo come devo fare. E devo trovare quei mattoni 40x40 che non le fanno più, cavolo, è un mito quei mattoni. Li ho trovati 45x45, li ho trovati 30x30, che sono 33x33. proprio 40 per 40 non le fanno più, adesso dico a mettere due 20 per 20, non lo so, ma è brutto, non lo so cosa vuole fare, poi vediamo. Dai, vi saluto, che il telefono mi ha parallela. Ciao Gianni, ciao Carlo, ciao Franco, e state bene, buon proseguo, grazie del questio, ci sentiamo alle prossime, state bene, ciao ciao. Ciao Tony, ciao, ci sentiamo, avanti Franco. Ciao Tony, facci sapere poi com'era il processo, mi raccomando, ciao, ti prendi Carlo. Ciao Tonino, ce la risentiamo, ciao, tante cose belle. Riprendi Gianni. Certo Franco, tu entra più spesso e poi ti dirò com'è il porcetto. Ciao ciao. Ciao ciao. Io l'agnello con i carciofi lo faccio, ma il porcetto con i piselli non l'avevo mai sentito, infatti è una cosa fatta da lui adesso, vediamo un po' com'è. Magari è buono, eh. Ma sicuramente, guarda che i condimenti, poi il sale, bel contrasto con i piselli che sono dolci, la cottura, secondo me è tutto buono, eh. Eh sì, infatti. Ma io no, ogni tanto anch'io ne vento di piatti, tante volte mi escono buoni, tante volte ci fanno schifo, però ci provo. Beh, le ricette, la maggior parte sono nate così, o per errori o per iniziativa, no? Infatti, poi c'è roba da mangiare commestibile, tutta buona, dai. No, no, non ci sono problemi. Vabbè, dai, mi sa che vi saluto anche io adesso.